Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo ormai in pieno inverno, il riscaldamento lo abbiamo acceso tutti da tempo, chi ha la caldaia individuale, chi ha la stufa a legna o anche chi è nei condomini con riscaldamento centralizzato, ma proprio su questo ci sono delle novità in arrivo importanti. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, la novità è che il riscaldamento centralizzato può non essere più centralizzato. Sì, una novità molto importante, perché come Adico abbiamo avuto moltissime persone che si sono rivolte a noi, soprattutto in questo periodo, in quanto ci hanno chiesto informazioni sulla possibilità di distaccarsi o meno rispetto a un impianto centralizzato. E oggi, con la sentenza della Cassazione numero 5331 del 3 aprile 2012, possiamo dire tranquillamente che il cittadino che desidera staccarsi da riscaldamento centralizzato oggi può sostanzialmente farlo. Facendolo, credo, ad alcune condizioni, nel senso che non è che può mettere una caldaia come vuole, dove vuole, quanto vuole. Certo, innanzitutto voglio dire, Mirko, che anche per questo tipo di informazioni noi abbiamo sempre uno sportello denominato sportello sfratti e condominio, che dà tutti i tipi di informazioni relativamente anche alle problematiche del condominio. Nel caso specifico, come hai detto tu, ci sono delle condizioni che bisogna rispettare, che possono anche un po' complicare questa possibilità, in quanto il consumatore o la famiglia che decide di voler intraprendere questa strada deve sapere che può farlo, se questo non reca sostanzialmente costi aggiuntivi o disagi per gli altri inquilini. E quindi bisogna stare molto attenti, perché chiaramente un impianto che è stato dimensionato per sopportare un certo numero di famiglie rischia che, dovendo ridursi ad essere utilizzato per poche, questo non sia più utile e conveniente per le famiglie che ne possono richiedere. Però certamente tutto questo si focalizza in una panoramica più ampia, che comunque in questo senso ha fatto dei passi molto ampi, che è quello appunto volto alla possibilità alle famiglie di poter risparmiare, per coloro che ad oggi si sono sempre rivolti a noi lamentando di pagare cifre astronomiche utilizzandolo poco. Ecco, questo è uno dei problemi, cioè perché uno si dovrebbe staccare, non perché magari fa freddo, ma perché vuole accendere quando vuole lui, perché quello centralizzato ovviamente ha degli orari che valgono per tutti. Beh, i motivi, come abbiamo iniziato adesso a spiegare, sono proprio innanzitutto questi, perché come hai detto tu ci sono famiglie che innanzitutto anche in questo momento di crisi cercano qualsiasi tipo di soluzione per risparmiare, e il riscaldamento certamente è una di quelle voci che in un bilancio familiare, in particolare il periodo dell'anno, incide moltissimo, ma anche perché ci sono delle persone che magari, pensiamo il singolo o la coppia che arriva a casa solo la sera, non gli interessa avere il riscaldamento acceso tutto il giorno e pagare certi importi, e soprattutto perché molte famiglie lamentano come magari, abitando anche all'ultimo piano di certi condomini, non ce la fanno più a sopportare certe temperature e le ritengono anche uno spreco, e addirittura sono costrette ad aprire le finestre per poter sopravvivere negli ambienti che diventano quasi invivibili, perché addirittura ci sono persone che si lamentano di avere 22-23 gradi dentro casa. E quindi questa cosa sicuramente, questa sentenza è una sentenza molto importante, perché al di là di quelle che poi sono gli aspetti applicativi che si può cercare di avere per arrivare a potersi distaccare da un impianto centralizzato, certamente muove un'importante attenzione su quello che è un problema comune soprattutto nelle città e negli edifici di una volta. Eh sì, gli impianti vecchi che consumano di più, sono meno efficaci e anche più costosi, evidentemente. Quindi uno potrebbe mettersi su la sua caldaia, ovviamente potrà utilizzare gli scarichi, cioè la canna fumaria condominiale, dovrà averne una sua, dipende dal condominio, ci sono queste variabili da affrontare ovviamente. Certo, allora la novità importante è quella che se una persona decide di distaccarsi non serve più il parere di una riunione condominiale, ma può essere una decisione autonoma, perché questa, come abbiamo detto, rispetta dei requisiti importanti, che è quello di non recare danno e disagio a nessuno. Poi certamente per quanto riguarda gli aspetti tecnici e di installazione, questo deve essere chiaramente realizzato da professionisti che rilasciano certificazioni che non mettano nessuno in condizione di poter avere dei disagi rispetto a quello che era un impianto che ha sempre funzionato. Però certamente per quanto riguarda le problematiche del condominio, sicuramente fatto di passi molto importanti, perché ricordiamo che per quanto riguarda anche il riscaldamento è un problema molto sentito in questo periodo anche di grossa crisi, perché il riscaldamento normalmente può arrivare a incidere anche per circa 2.000 euro per una famiglia che abita su un appartamento di 35 metri quadri e vivono in quattro, per cui 1.000 euro che si possono risparmiare, tenendo conto che anche da un calcolo che avevano fatto i nostri esperti, abbassare di un grado un ambiente si può arrivare a risparmiare fino all'8% sulle bollette. Quindi pensiamo chi si trova a 22-23 gradi e vuole portare l'ambiente a 19-20 gradi, sicuramente il risparmio può diventare significativo. Mettiamoci nei panni, ad esempio, in condominio di 10 in cui uno vuole staccarsi. Gli altri 9 devono ripartirsi anche la sua quota, perché l'impianto centralizzato, immagino, continua a consumare uguale. Questo è il problema di fondo, che tu ti puoi distaccare se non crei nessun disagio e danno economico agli altri inquilini. Quindi bisogna pensare che nel caso che una persona si distacchi, gli altri inquilini non possono pagare per te quello che sostanzialmente non consumi, ma il calcolo dovrebbe essere più una sommatoria matematica di dire: se prima in 10 pagavamo 100, in 9 dobbiamo pagare 90. Chiaramente se i bilanci vengono squilibrati, la cosa si può complicare, e questo sicuramente non è più possibile. È anche vero che comunque per tutte queste informazioni ci sono le possibilità di fare delle perizie, e si possono fare anche un'analisi che certamente può mettere in condizioni sia l'amministratore che il consumatore di poter verificare se la strada da intraprendere può essere la strada più adeguata e soprattutto possibilista. Non è che oggi uno può decidere di staccarsi, mettersi la propria caldaia perché c'è una sentenza della Cassazione, però può essere un importante orientamento che sicuramente ha mosso dei passi molto importanti. Una porta, o se preferite una finestra, aperta anche in questo settore. Ringraziamo il presidente dell'Adico Carlo Garofolini, ci ritroviamo tra un paio di giorni con un altro argomento ormai natalizio. Buon proseguimento. Grazie a te, Nico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.